Radio 24. Libera la voglia di fare. Cronache da un paese migliore, di Alessio Maurizi. Sette e 34 minuti, buongiorno a tutti cari ascoltatori, ben ritrovati da Alessio Maurizi, inizia una nuova puntata di Si può fare, cominciamo tra poco con una veloce rassegna stampa, una lettura del giornale di oggi che ci accompagnerà fino al giornale radio delle 8. E quindi vi ricordo anche i nostri contatti, se volete 349-238-6666 per dialogare con noi mentre leggeremo, con me mentre leggerò i giornali via SMS, ma anche su WhatsApp, poi la pagina Facebook, lo sapete, Si può fare trattino Radio 24, l'account su Twitter chiocciola Si può fare 24, mio chiocciola Ale Maurizi. Con noi oggi più avanti il ministro dell'ambiente Galletti per una commentare una buona notizia, il nuovo data center per il meteo che dovrebbe trovare sede a Bologna, quindi un'altra piccola parziale vittoria dell'Italia in campo europeo. E poi parleremo con una persona davvero speciale, un uomo che si occupa da tempo di persone malate, parleremo con lui di fine vita, parleremo con lui della notizia di questa settimana che simbolicamente vogliamo dedicare a DJ Fabo, il fatto che quasi l'80% dei ragazzi delle scuole italiane manifesta l'interesse per queste tematiche, per il fine vita, per sapere qual è il diritto di curarsi, fin dove arriva un dibattito che non entra in Parlamento ma che gli studenti delle scuole italiane vorrebbero entrasse almeno nelle loro scuole. Questo però dopo il GR delle 8, adesso iniziamo con i giornali, vai! E allora, eccoci qua, quasi tutti i giornali titolano, dedicano le aperture, i titoli principali, la prima parte del giornale alla vicenda della Consip, a questo presunto caso di traffico di influenze o di corruzione vera e propria, l'agenzia, la società che gestisce gli appalti per la pubblica amministrazione, il cui capo Marroni ha già ammesso di aver ricevuto pressioni, anche se dice io poi non ho mai preso nessuna decisione in base a queste pressioni che sarebbero arrivate da varie persone, tra cui anche e soprattutto il papà dell'ex premier del presidente del Consiglio Matteo Renzi, Tiziano Renzi, che ieri è stato interrogato dai magistrati a Roma. E cioè, su questo che ci sono tante notizie, cominciamo a leggere i titoli principali. Corriere della Sera parte dalle dichiarazioni invece di Matteo Renzi, che ieri sera 8:30 in televisione ha ovviamente risposto alle domande su questo caso. Se è colpevole, pena doppia. Se è colpevole, pena doppia. Cioè, attenzione, perché qua Matteo Renzi, non almeno in questa, diciamo, in questa titolazione, ma c'è un motivo se questa titolazione, se questa notizia viene evidenziata, non esclude la colpevolezza del padre. Se è colpevole, pena doppia. Renzi sul padre interrogato ieri, così a 8:30, Russo, l'imprenditore toscano, il giovane imprenditore toscano che fa da mediatore in questa vicenda, disse a Romeo, l'imprenditore napoletano che invece vuole aggiudicarsi gli appalti, disse in una intercettazione: Tiziano è a disposizione. Naturalmente poi si tratta di capire, adesso leggeremo se si tratta di come dire, illazioni, persone che, come capita spesso, vantano di avere questi, questi contatti, la possibilità di influire, di avere questa capacità di influire sulle decisioni delle, negli appalti, delle aziende che contano, per intascare qualche guadagno senza magari poi essere in grado realmente di poter esercitare queste pressioni e queste influenze. Illazioni o realtà? Ci sono le intercettazioni, ci sono già le prime dichiarazioni di un dipendente della Consip che ha fatto delle ammissioni e quant'altro. Ancora qualche titolo, poi leggiamo anche delle interviste, dei passaggi di retroscena. La Repubblica scrive: Consip, qualcuno avvisò gli indagati. Renzi, se papà è colpevole, pena doppia. Quindi diciamo il titolo si divide sull'aspetto di Matteo Renzi che si difende, se papà è colpevole, pena doppia. E poi Consip, qualcuno avvisò gli indagati, perché dagli elementi dell'inchiesta emergerebbe come una fuga di notizie due giorni dopo che il telefono del padre di Renzi, Tiziano Renzi, è stato messo sotto tutela, insomma sono scattate le intercettazioni per Tiziano Renzi due giorni dopo, in un giro di telefonate tra personaggi vicini appunto a Tiziano Renzi si dice non chiamarlo più neanche un messaggio, quindi sembra proprio che qualcuno abbia saputo di questa fuga di notizie. La Stampa scrive: la maxi tangente con i soldi all'estero, qua si segue la traccia dei soldi che eventualmente sarebbero transitati. Che notizia che emerge dai dialoghi tra i due imprenditori, Russo e Romeo: ti pagherò 100.000 euro non a Dubai però, ma a Londra, dove Romeo aveva dei lavori e quindi poteva in qualche modo far transitare dei soldi per i magistrati in nero, eccetera. Poi la Stampa mette anche nel sottotitolo: in Parlamento la battaglia su Lotti, perché la Lega e il Movimento 5 Stelle chiedono la sfiducia per il ministro Lotti. Il Giornale scrive: sotto torchio 4 ore, papà Renzi show dai giudici, i miei incontri, volevo solo far mettere una statua della Madonna, perché Tiziano Renzi, a quanto si è saputo, parla dei contatti con l'imprenditore toscano Russo, dicendo che sono contatti che derivano dalla loro comune antica militanza religiosa, passione religiosa. E poi che cos'altro? Il Messaggero, il padre dai PM, Renzi in trincea, 4 ore di interrogatorio, il papà, per il papà dell'ex premier, abusano del mio nome. E qui si torna al tema delle illazioni. Sul Corriere l'intervista ad Luigi Marroni, diciamo il capo della Consip, l'azienda perché gestisce gli appalti per la pubblica amministrazione, da cui parte tutta questa inchiesta. Conosco tante persone, dice ancora una volta in un'altra intervista molto loquace Marroni, da quando sono qui non ho smesso di incontrare le persone che mi cercano, anche perché altrimenti non vedrei più nessuno. Capita che ti chiedano un favore, io di solito faccio finta di prendere un appunto e poi lo butto via, l'importante è non superare quella linea che ti porta a compiere un illecito. Io non l'ho mai fatto, nessuno mi accusa di averlo fatto. E qui è evidente come ci sia, al di là delle risvolti poi giudiziari, penali, reali che emergeranno, c'è un problema di come agiscono queste pressioni, queste lobby, questi mediatori. Marroni dice: incontro tanta gente, mi chiedono dei favori, prendo appunti. La domanda sorge spontanea, ma perché non le ha mai denunciate? La domanda infatti del giornalista del Corriere. Se ti chiedono un favore, risponde Marroni, non è che ti metti subito a urlare e rovesci il tavolo, l'importante è non farlo quel favore. Io non l'ho fatto. E c'è da capire però se le richieste di favori invece non si configurino già come delle ipotesi di reato, che quindi devono essere, da parte di un pubblico ufficiale come Marroni in quella veste, capo della Consip, un'azienda pubblica al 100%, non debba invece in qualche modo correre dal magistrato a denunciare. Guarda che è venuto Carmelo Lauricella a chiedere un favore. Carmelo Lauricella, attenzione, accusa, querela, è il nostro regista, è solo un nome di fantasia che sta usando in questo caso. E poi ancora l'intervista a Marroni, a proposito della cimice che lui ha fatto rimuovere, i magistrati lo stavano spiando, c'era una previsione della magistratura per indagare legittimamente, e lui ha fatto togliere la cimice, ma chi l'ha avvertita? Luca Lotti? Non posso rispondere, Luca Lotti, il ministro, che è accusato di avere avvertito Marroni di queste intercettazioni. Non posso rispondere, c'è un'inchiesta, ho fatto fare dei controlli di routine, a questo tavolo vengono discusse cose delicate, molte aziende fanno bonifiche periodiche e dal mio staff mi dicono che in Consip si fa almeno dal 2005. Poi dice che ha comunque tolto le cimici, ma ha chiamato i magistrati e si è messo a loro disposizione. Forse le pressioni dipendono dal fatto che l'amministratore di Consip viene nominato in via diretta dalla politica. Non sarebbe meglio una selezione pubblica? La domanda, perché è evidente che se tu sei nominato da un politico, poi è possibile che questo politico ti venga a chiedere un favore. Ti ci ho messo io lì, adesso dammi una mano. Risponde Marroni, ma perché i vertici delle ferrovie, di Eni, di Enel, come vengono scelti? Nemmeno loro vivono chiusi in un monastero tibetano e vengono alimentati a distanza. La procedura non mi sembra il problema, già adesso la scelta viene fatta all'interno di una rosa di nomi indicata da esperti. E va bene, poi andiamo quello che scrivono insomma, i giornali, traendo spunto da quelle che sono le carte dell'inchiesta. Era il 27 settembre scorso quando Alfredo Romeo ricevette dal ragazzo Carlo Russo, l'altro giovane imprenditore toscano, la promessa che aspettava. Parlavano a bassa voce, quasi bisbigliando, nell'ufficio romano dell'imprenditore napoletano, ma le cimici dei carabinieri riuscirono a registrare. Due punti, virgolette, Tiziano gli chiede, mi chiede, anzi mi dice di chiederle se per lei non è un problema, dice che lui è a disposizione, qualsiasi cosa gli manda un messaggio, però dice aspettiamo dopo il referendum. Quindi questo dice Russo a Romeo, gli dice guarda che Tiziano è a disposizione, chi sia Tiziano, i magistrati sospettano che sia Tiziano Renzi. Il referendum poi va come è andato, aspettiamo dopo il referendum, che cosa sia successo dopo il referendum lo spiegano le intercettazioni successive. Romeo accoglie la disponibilità del padre dell'ex premier come un via libera al suo progetto, cioè l'appoggio politico a livello più alto per aggiudicarsi questi appalti, secondo l'accusa e la testimonianza del dirigente Consip Marco Gasparri, che è il personaggio che ha aperto la stura a questa inchiesta con le sue dichiarazioni, con le sue rivelazioni. Ripeto, potrebbero essere allusioni, abuso di nomi e illazioni, oppure la pura e semplice verità su cui insomma i magistrati stanno indagando. Romeo dice allora io mi muovo come se avessi già la cosa, nel senso che organizzo pensando che la decorrenza avverrà a Natale, e per i magistrati il sospetto è che si riferisca alle modalità di pagamento per l'intervento di Tiziano Renzi e Russo in suo favore. E poi prosegue questa conversazione, Russo spiega a Romeo, cioè è chiaro che non può ribaltare la situazione, se uno c'ha 10, stiamo parlando delle graduatorie di questi appalti, non è che può arrivare a 50, se uno ha 48 gli può dare 50, capito tutto avvocato? Messaggio ricevuto, vabbè, insomma questi sono brandelli di intercettazioni che dimostrano quello che dimostrano. Ci fermiamo per il traffico, torniamo tra pochissimo. Faircam Logistics, gli specialisti per la tua supply chain. Scopri di più su faircam.com. Vi presenta... E allora, cari ascoltatori, eccoci qua di nuovo, buongiorno da Alessio Maurizi, stiamo dando un'occhiata ai giornali di oggi e stiamo sulle carte dell'inchiesta Consip. Un altro punto che emerge è quello di una presunta fuga di notizie. Scrive Repubblica, i PM sospettano un'altra fuga di notizie. Il 5 dicembre, dopo il referendum, il telefono di Renzi Senior viene messo sotto controllo. Due giorni più tardi, il 7 dicembre, l'ex autista del camper del leader del Partito Democratico Matteo Renzi, il suo giro in camper ricorderete, avvisa avvisa l'imprenditore russo e di non chiamare il babbo. Non chiamare più babbo, la telefonata di un amico avvisò il russo dell'indagine. Al centro, scrive Repubblica, dell'asse Napoli-Roma-Rignano sull'Arno c'era Russo, l'uomo che per gli investigatori, grazie ai legami con Renzi Senior, si sentiva in diverse occasioni con l'ex ministro, tra l'altro Maria Elena Boschi, con l'attuale ministro Luca Lotti, il tesoriere del PD e deputato Francesco Bonifazio, insomma i principali uomini e donne di fiducia dell'ex premier. Una telefonata mise sull'avviso Carlo Russo. Un amico gli suggerì di non contattare più Tiziano Renzi sul cellulare, neanche via SMS, non chiamare più il babbo. E anche questa è un'intercettazione agli atti. Perché ci sia stata questa telefonata, a cosa si riferisse, noi non possiamo naturalmente saperlo. Il sospetto dei magistrati è che due giorni dopo che il telefono di Tiziano Renzi viene messo sotto controllo in questa inchiesta, questa notizia sia uscita, sia filtrata, e allora la rete di amicizia abbia avvisato non chiamare più il babbo. Se sia poi perché c'era qualcosa da nascondere o semplicemente per non finire coinvolti in una inchiesta di cui magari non si aveva nulla da temere, ma non si vuole comunque essere coinvolti, questo, ripeto, non possiamo saperlo, ma insomma, qui gli indizi per i magistrati sono tanti e convergono. Un altro indizio è quello che si cerca di ricostruire, ma ancora non ci sono certezze, è quello del passaggio del denaro. È la prova delle prove, la prova regina, perché se non c'è stato passaggio del denaro probabilmente crolla tutto l'impianto della inchiesta. La maxi tangente era 100.000 euro l'anno, versameli a Dubai, no meglio Londra, scrive La Stampa. Per la mediazione di Russo e acquisto preventivo assenso di Tiziano Renzi all'avvio delle illegali d'azioni, questi sono virgolettati, scusate, li leggo, sono così, Romeo manifesta l'intenzione di devolvere, Romeo l'imprenditore napoletano che vuole gli appalti in Consip, lo ripeto perché magari uno perde il filo, manifesta l'intenzione di devolvere 100.000 euro netti all'anno a Russo attraverso l'affidamento di contratti di consulenza proprio nel settore della valorizzazione alberghiera. In realtà Russo tira in ballo Dubai, ma Romeo scarta l'ipotesi di rendere un paese troppo a rischio per realizzare siffatte operazioni. Meglio sfruttare l'esistenza della società londinese gestita dal figlio di Romeo, che si chiama Francesco Romeo, una consulenza fittizia pagata su un conto inglese. E i magistrati dovranno capire se c'è stato questo passaggio di denaro o no, visto che poi le inchieste arrivano in tempo reale e probabilmente bloccano questo traffico di influenze. Di sicuro c'è che Romeo adesso chiede un risarcimento allo Stato, cioè l'imprenditore che al Tribunale di Roma e Napoli è accusato di avere fatto pressioni e di aver pagato tangenti per avere degli appalti in Consip, proprio per un appalto che gli è stato negato, chiede un risarcimento di 80 milioni 85 milioni allo Stato. E quindi siamo al rovesciamento proprio della realtà, delle due l'una naturalmente, ma sarà il Tribunale Civile di Perugia dal 28 giugno prossimo a pronunciarsi su questa maxi richiesta di risarcimento che Romeo ha avanzato contro l'Italia alla Corte Europea di Giustizia per il pronunciamento decisivo su un appalto a 200 milioni che la centrale degli acquisti Consip gli ha revocato. E questo è quanto. Direi che mandiamo qualche altra notizia, perché vabbè, intanto ieri per esempio il Messaggero, come secondo titolo principale ci ricorda, lo definisce così, il pasticcio sullo stadio a Roma, il progetto slitta e l'iter raggi regione, pareri contrastanti al comune, salta la proroga, manca il sì formale verso un rinvio di 6 mesi. Accaduto che ieri in conferenza dei servizi Stato, Regione, scusate, Regione, Comune, Città Metropolitana, enti promotori dello stadio eccetera eccetera, non hanno trovato un accordo per una proroga di 30 giorni che era necessaria per sciogliere i nodi che ci sono dal momento in cui il progetto rispetto al vecchio progetto stadio è cambiato. Sostanzialmente c'è il parere contrario della regione. Adesso i consiglieri comunali del Movimento 5 Stelle, Virginia Raggi, ieri si sono affrettati a dire non c'è problema, il progetto non salta, però ci sono ancora, insomma, alcuni giorni affinché si possa trovare un nuovo accordo. E il pallino, se abbiamo capito bene, nei meandri della burocrazia italiana, adesso è nelle mani della regione momentaneamente. Questo è il titolo principale del Messaggero, ma poi c'è naturalmente anche spazio per la questione di Rignano, l'incendio, i due migranti bruciati vivi nell'incendio del Gran Ghetto, scrive il Corriere della Sera. Tutti i giornali se ne occupano e purtroppo quello di Rignano non è tra l'altro l'unico luogo del genere in tutta Italia. È Repubblica che si incarica di con una cartina d'Italia di farci vedere come insediamenti così con casolari, container, in alcuni casi baracche o tende o a volte anche edifici veri e propri occupati abusivamente o meno si trovino in tutta Italia, da Torino a Brescia, Udine, Padova, Reggio Emilia, per non parlare di Roma, Napoli naturalmente, ma poi al sud Cosenza, Crotone eccetera. L'intervista ad una volontaria della Caritas che parla del ghetto di Rignano, dice: in 8 anni l'ho visto nascere, crescere e ora morire, spiega Concetta Notar Angelo di Rignano. Ci sono stata quando c'erano 2500 persone, una vera e propria città parallela con le attività commerciali, dal bar al ristorante, perfino il parrucchiere, e con i caporali che hanno preso il controllo schiavizzando i lavoratori. Il picco di presenze l'abbiamo toccato dopo la primavera araba, che ha portato nelle campagne foggiane migliaia di migranti africani. Grazie all'aiuto di tanti volontari abbiamo fatto corsi di italiano per bambini, sportelli di assistenza legale, distribuzione di beni di prima necessità, ma anche progetti contro lo sfruttamento lavorativo. Quindi una realtà parallela, una città parallela sotto gli occhi di tutti, che è stata tollerata, consentita, non si è riuscito, non si è saputo, non si è voluto evitare che nascessero delle realtà del genere, che poi sono deflagrate con proteste, situazioni fuori dal controllo, l'incendio come è accaduto ieri a Rignano, un campo che è stato sgomberato solo 2 giorni fa, ma c'erano ancora uno sgombero ovviamente parziale, c'erano ancora 2 persone dentro, due migranti del Mali sono morti. Repubblica, per chiudere in prima pagina, ci porta un po' di sollievo: il super computer del meteo perfetto, il centro nasce a Bologna. Si riferisce alla decisione, anche se non è ancora definitiva, dell'autorità per il meteo, del Centro Europeo per le Previsioni Meteo a Medio Termine, che da Londra si trasferirà, o meglio si estenderà, fino a Bologna. Una piccola vittoria per l'Italia, un centro che dovrebbe essere in grado nei prossimi decenni di fare previsioni meteo a 2 settimane su aree da 300 metri di lato, quindi una cosa pazzesca. Questo a Bologna. Ci fermiamo, c'è il giornale radio, poi ci ritroviamo subito dopo con Si può fare, ci sarà con noi anche il ministro Galletti. A dopo. Si può fare. Cronache da un paese migliore. Ed eccoci qua, buongiorno da Alessio Maurizi e buongiorno da Carlo Gabardini. 8 e 17 minuti, inizia una nuova puntata di Si può fare. Carlo, Milano Monterosa, sento dei strani fischi in cuffia, dobbiamo abbassare l'audio delle cuffie altrimenti ci saltano i timpani oltre che quelli degli ascoltatori. Milano Monterosa, piovigginoso, che forse piovigina, che forse no, insomma, per il momento niente di bellissimo. Non siamo soddisfattissimi da queste previsioni, da questo ritorno un po' di mezzo autunno, mezzo inverno, quando pensavamo di essere già con un piede nella primavera. Esatto. Esatto, ma presto le previsioni le chiederemo a Bologna, giusto? Ma ne parliamo dopo. Quindi ma come mi sei sul pezzo? Sono molto sul pezzo, infatti penso che sarà l'ultima volta che mi chiederai le previsioni di Milano-Monterosa, perché ormai poi telefoneremo a Bologna. A Bologna, il super computer del meteo perfetto, il centro nasce a Bologna. Oggi anche Repubblica dà questa notizia, questo approfondimento, ne parleremo con il ministro Galletti. Tante volte ci sentiamo degli orfanelli, dei brutti anatrocoli in Europa, magari lo siamo pure, abbiamo anche il diritto di lamentarci su alcune cose, però vedi, questa è già la seconda vittoria dopo l'autorità per la sicurezza alimentare a Parma, adesso un centro per le previsioni meteo di medio raggio a Bologna, anche se la decisione non è ancora definitiva. 800 24 00 24. Inizieremo tra poco da un tema molto, molto delicato, la settimana in cui se n'è andato DJ Fabo e tutta Italia ha parlato di questa delicatissima vicenda. Gli ultimi giorni della sua vita è andato in Svizzera, dove ha deciso di poter portare a compimento la sua scelta, una dolce morte. Un tema su cui è difficile dire qualunque cosa, ma invece bisogna dire tante cose. Lo chiedono per esempio i ragazzi delle scuole italiane, un sondaggio importante, l'80% vuole parlarne. Bisogna aprire il dibattito, la discussione, avere la forza di trovare parole, e noi avremo una persona molto molto in gamba, molto che ci piace molto e che avrà parole sicuramente per parlare di questo. È doveroso parlarne assolutamente, da moltissimi anni si aspetta una legge sul fine vita. Ricordiamo tutti più di 10 anni fa la questione Welby, e anche dopo la questione Welby si disse adesso si fa la legge, non vorremmo che di nuovo fosse questa la questione, cioè nel momento dei riflettori accesi allora improvvisamente la politica si sveglia e pare che il 13 marzo andrà in aula una legge in realtà non sull'eutanasia ma sul testamento biologico, che però comprende delle questioni molto affini, e speriamo, e ne parliamo dopo. E insomma, restate, non lo diciamo tante volte, ma restate all'ascolto, perché Furio Zucco, presidente di Presenza Amica Onlus, è una persona da ascoltare. 800 24 00 24. Anche oggi però in palio per i nostri ascoltatori che chiameranno e giocheranno con noi, staranno al nostro gioco, anche oggi un libro, in attesa di riproporre le mostre, come abbiamo fatto i biglietti delle mostre per molte puntate in passato. Ma in cambio di cosa? Un libro? In cambio di cosa? Dillo tu. In cambio di raccontarci di brutte figure sul posto del lavoro. Anzi, partiamo dalla notizia. Sì. In realtà la coppia che lavora per la società degli Oscar, che si occupa delle buste dei vincitori degli Oscar, che si sono, dopo un'inchiesta si è scoperto con precisione chi fossero i colpevoli di aver consegnato la busta sbagliata, e quindi facendo fare una brutta figura in mondo visione. Esattamente. A Warren Beatty, tra l'altro, che è stato anche all'inizio è stato dato per colpevole come se fosse la sua anzianità, invece si vede benissimo nel video che Warren Beatty tira fuori la busta e dice: ma questa busta deve essere sbagliata. Poi fa quella, una cosa vigliacchissima, come tutti gli uomini, che cosa fa un uomo con di fianco una donna? Fa risolvere il problema alla donna, consegna la busta alla donna e fa dire a lei il nome, e quindi in qualche modo fa sbagliare lei. E allora noi vorremmo che ci raccontaste, e sono stati licenziati questi due, raccontaste quella volta che è capitato a voi o a qualcuno che conoscete voi di fare un errore imperdonabile, una gaffe al lavoro, di quelle che poi racconti per tutta la vita, un modo per così, per esorcizzare, per sfogare quei momenti che uno si porta sempre dentro. Io per esempio ce l'ho un racconto, perché a me è capitato una volta, è vero, ero a Radio 24 tanti anni fa, in esterna al meeting Comunione Liberazione a Rimini, dovevo registrare un servizio dall'esterna, allora chiedo disponibilità alla regia, comincio la registrazione, poi fa no, aspetta, interrompi perché c'è un tuo capo che deve fare una cosa. Io, madonna, ma che cavolo, ma proprio adesso, ma vaffa, e comincio a inveire contro il mio capo, che poi possiamo dire era Sebastiano Barisoni già allora, e solo che lui stava ascoltando tutte le mie invettive, quindi apre il microfono e fa: come, scusa, cosa avresti da dire? E io: no, niente, figuriamoci, assolutamente, però sono ancora qua, quindi insomma è andata bene, dai. Esatto, a volte vanno bene, a volte vanno male. Quindi vi chiediamo i vostri racconti di cose terribili che avete fatto sul posto di lavoro, sia che siano finite bene sia che siano finite male. 800 24 00 24, siamo qua. Allora, vorremmo dedicare simbolicamente a DJ Fabo, ma anche a tante altre persone, una notizia di questa settimana. Anche se in Italia non c'è una legge che regoli il diritto alle cure, a scegliere quando, come curarsi o non curarsi, o addirittura, come voleva Fabo, scegliere una dolce morte, ben il 78% dei ragazzi delle scuole italiane, secondo un sondaggio di scuola.net, vorrebbero che si parlasse loro di più di questo argomento, del fine vita, della malattia, di cosa ci può capitare in quelle situazioni, di quali sono i nostri diritti. E allora niente, noi stamattina ce l'abbiamo, una persona con la quale parliamo molto volentieri di questo, è un uomo, un medico, una persona che ha fondato un'associazione che si chiama Presenza Amica, è Furio Zucco. Ciao Furio. Ciao, ciao, ciao. Buongiorno. Buongiorno a tutti. Furio, che abbiamo già sentito altre volte e che questa mattina chiamiamo così a darci una mano. Però partendo da questa che è una bella notizia, no? I giovani italiani che si dimostrano, Furio, ancora una volta più avanti dei nostri politici. Beh, certamente è una cosa normale nella storia che i giovani siano sempre più avanti, perché rappresentano la forza viva della società, quella più attenta alle modifiche, e quindi non mi stupisco, anche per esperienza di molti di noi che hanno insegnato nelle scuole, certo, che hanno parlato già di queste cose che apparentemente sono difficili perché non si conoscono. Sono difficili proprio per questo, invece certo, parlandone diventano non meno importanti, ma forse meno difficili. Tu certo, con la tu voglio fare questa presentazione perché non l'abbiamo ricordato adesso, Presenza Amica Onlus, da tanti anni hai fondato questa Onlus che dà una mano, cerca di aiutare, di portare un conforto ai malati nella fase terminale della loro vita. Sì, quindi chiamare fase avanzata di una malattia, certo, inguaribile, perché questo termine terminale, come sai, è molto duro, no? E però le parole hanno una loro importanza. Certo, le parole quale sfumature, come appunto in questa disegno di legge, i punti e virgola, le sfumature, le parole, tu pensa al discorso di differenza fra disposizioni, dichiarazioni, direttive anticipate, certo, queste, proprio le parole sono importanti. Senti, allora dillo tu, ridicelo tu, di cosa si occupa Presenza Amica Onlus? Beh, Presenza Amica è un'associazione di volontariato, quindi non eroga servizi, velocissimamente i volontari operano di fianco ai malati e alle loro famiglie in hospice, in queste strutture che la legge 38, che è una legge importante, anche i livelli essenziali di assistenza hanno diffuso nel nostro paese, e anche al domicilio, quindi i due cardini di quelle che è un altro termine che emerge in tutti i dibattiti oggi, le cure palliative. I nostri volontari sono una parte essenziale, come quelli di altre 250 associazioni in tutta Italia. Quindi sì, certo. Allora Furio, andiamo per ordine. Tu sei spesso chiamato, fortunatamente, ma a questo punto ho visto questa notizia, l'80% degli studenti che vogliono parlarne, speriamo che sarete chiamati voi ed altri a parlarne ancora di più, vai nelle scuole. Quali sono le domande che ti fanno di più i ragazzi su questa questione? Diritto alla cura, diritto alla non cura o addirittura a scegliere una dolce morte come nel caso di DJ Fabo? Le domande che i ragazzi fanno sono sul diritto all'informazione, cioè cosa vogliono sapere, cosa si nasconde o cosa c'è dietro termini che noi diamo per scontati, ad esempio, li butto lì perché sono molto duri, no? Eutanasia, omicidio assistito, consenso informato, sospensione delle cure, cioè sono tutti termini che noi appunto nei dibattiti televisivi o alla radio diamo per scontati, ma dei quali... Cioè come ragazzi... se fossero, faccio una traduzione, come se fossero veramente pietre buttate lì, cioè certo, colpi che ci arrivano addosso, e in effetti forse le usiamo anche noi stessi adulti senza certo, sapere bene nemmeno di cosa certo, si tratta. Figuriamoci i ragazzi. Uno parla di idratazione e alimentazione, è chiaro, alimentazione artificiale, è chiaro che sei medico o sei infermiere o se opera negli ospedali da per assodato, però poi quando uno ci arriva o per esperienza personale o per volontà di conoscenza devi spiegare, ecco la spiegazione. ne abbiamo parlato già altre volte, per poter decidere consapevolmente bisogna conoscere. Ecco, i ragazzi vogliono conoscere e non è facile, perché chiaramente ognuno di noi tende a fare una formazione che nasconde in fondo dietro quello che ciascuno pensa su queste tematiche. Però ecco, loro vorrebbero una informazione indipendente, un'informazione che non sia dogmatica, ma che dia gli elementi per poi poter decidere. Ecco, ma perché, al di là del fatto che questo è un argomento sicuramente delicato, per certi aspetti un tabù, però perché poi invece è così difficile aprire una discussione nazionale? Ci vuole il caso eclatante, ci vuole la dichiarazione di Saviano, perché i politici forse pensano di raccogliere il loro consenso anziché rivolgendosi a questi giovani che hanno bisogno di sapere, voglia di sapere, anche da quello che mi dicevi tu, manifestano soprattutto la volontà, il diritto di poter scegliere. Invece forse certo, i politici guardano a una generazione più anziana, dove questo più tradizionalista, dove questi argomenti sono più sensibili alla tradizione, magari all'influenza della Chiesa cattolica. Certo. Te lo chiedo. Come sempre capita, quando uno fa una domanda difficile dice: o è un problema culturale oppure è un problema multifattoriale. Cercherò di risponderti al perché a 70 anni, cioè l'articolo 32 della Costituzione, che dice che nessuno può essere obbligato a un determinato trattamento sanitario, chiaramente è di 70 anni fa, quindi i politici già si erano trovati d'accordo che la legge non può in nessun modo violare i limiti, sto citando, proprio l'articolo 32, imposti dal rispetto. Beh, la risposta è, a mio avviso, che da una parte chiaramente decisioni di questo tipo attengono al livello di etica di ognuno di noi, e quindi sono scelte difficili, quindi non butterei la croce così per partito preso sui politici. D'altro canto, però, che ci siano atteggiamenti strumentali è naturalmente fattore costituente della politica. Quindi questi sono due aspetti. D'altro canto, tu vedi che anche gli schieramenti politici si frammentano rispetto a queste scelte etiche. Per quanto riguarda l'influenza della religione cattolica, anche qua è molto complesso, perché paesi come la Spagna da questo punto di vista sono più avanti di noi, e sfido chiunque a dimostrare che la Spagna non sia un paese cattolico. Io penso che da questo punto di vista, al di là di alcuni schieramenti, io ho sentito dichiarazioni, come molti di noi che si occupano di queste tematiche, da parte di alti rappresentanti della Chiesa cattolica, e le aperture sono notevoli. Probabilmente è un retaggio culturale più che una posizione diretta da parte dell'unanimità della Chiesa cattolica. Certamente il principio fondamentale di grande discussione, se vogliamo riportare ad una discussione alta, è il punto centrale: la vita come dono o la vita come diritto. Questo è il punto essenziale sul quale non c'è incontro. Tra l'altro, chi pensa che la vita è un dono di Dio, dice che è un dono particolare, è un dono che praticamente tu non puoi utilizzare, no? Questa è una posizione. Però c'è una cosa che mi ha colpito nella posizione della Chiesa, che dice attenzione, perché autorizzando, concedendo l'eutanasia o il diritto, insomma, a scegliere di non curarsi, o addirittura ad andare incontra una dolce morte, si rischia di far passare l'idea che una persona in quella fase della sua vita diventa uno scarto, non ha più valore. E invece mi sembra che il messaggio di Fabo non fosse questo, assolutamente. Per lui stesso non aveva più importanza, non aveva più senso proseguire in quella esistenza. Per altre persone probabilmente no. Tu, che ne hai conosciute sicuramente tante e hai aiutato molte persone con la tua onlus presenza amica, insomma, le reazioni in quella fase sono le più diverse, no? Cioè non è che siamo tutti uguali. Il punto è la libertà poi di poter scegliere. Certo, allora diciamo subito che questa sia una differenza nel nostro paese, giunti alla fase di fine vita, perché questo è l'altro termine, no? Tutte queste problematiche riguardano il fine vita, la fine della vita umana. Certamente non tutti arrivano preparati, anzi in Italia la consapevolezza di quello che sta succedendo, tu sai che questa è la battaglia, una battaglia di presenza amica, il diritto alla consapevolezza, è una affare di pochi, cioè poche persone sono consapevoli di quello che non della diagnosi di malattia, qua siamo più avanti, ma la diagnosi che la malattia è entrata nella fase avanzata. Bene, questo è un problema che poi porta al fatto che l'assistenza, l'aiuto, la cura a volte viene fatta in una persona e anche in un gruppo familiare che è inconsapevole di quello che gli sta capitando. Questo tipo di approccio non è identico. In altri paesi la consapevolezza del fine vita è una cosa alla quale ci si arriva per gradi, ma che poi dà un estremo grado di libertà nelle proprie scelte. Ecco perché prima di parlare di eutanasia, o meglio, pur parlando di eutanasia, di omicidio assistito o di sedazione, di cure palliative, che tutti confondono, perché in questi giorni, pur essendo il dibattito molto avanzato, io ho notato questo, molti di noi hanno notato anche nei media una maggiore appropriatezza rispetto al passato. Ecco, il concetto fondamentale è che noi dovremmo far sì che le persone sappiano quello che avviene nella nostra vita. Poi naturalmente, Furio, non tutti hanno lo stesso modo, non tutti possono raggiungere lo stesso livello di consapevolezza. Certo. Può essere anche ammesso e ammissibile che uno non voglia invece raggiungere un livello di consapevolezza troppo avanzato, però invece chi ce lo ha questo livello è giusto che venga tutelato, come nel caso per esempio di DJ Fabio. La nostra esperienza, sicuramente chi ha maggior consapevolezza affronta meglio ciò che gli sta capitando. Ma volevo chiederti quello che dici tu, è vero. Volevo chiederti un'altra cosa, come giustamente prima stavi dicendo che nella cattolicissima Spagna in realtà per molti versi si è più avanti, mi chiedo come mai secondo te in Italia invece c'è una questione che non è tanto della posizione della Chiesa, ma si ha la sensazione che ci sia un gruppo di integralisti, tra l'altro completamente trasversale, destra, sinistra, centro, che bloccano, diciamo, le leggi, sia questa, sia la legalizzazione della marijuana, le leggi contro l'omofobia, la stepchild adoption o appunto il fine vita. Come mai in Italia c'è questo gruppo di politici integralisti che vuole superare a destra la Chiesa? Ma perché, a mio avviso, da una parte c'è un atteggiamento rispetto all'approccio della libertà individuale, c'è cioè un approccio meno libertario che in altri paesi. È come se si dicesse io non ti do il numero, il telefono libero, perché poi tu puoi fare praticamente tutte le telefonate che vuoi. Altri, scusate questa banalizzazione, no, nell'approccio, altri invece certo. dicono no, io ti blocco già il telefono in anticipo perché so che tu lo utilizzerai male. Ecco, questo tipo di approccio probabilmente nel nostro paese, anche per paura, diciamo che sono tematiche nelle quali non è che l'istituzionalizzazione di un percorso non abbia portato a problematiche, però ecco, lì ognuno di noi approccia in modo differente. Io penso che ad esempio i giovani per impostazione abbiano un atteggiamento più libertario, dove utilizzo una parola forse obsoleta, utilizzata tanti anni fa dalla mia generazione, libertario significa tutelare le libertà individuali, ma qua torniamo all'articolo 32 della Costituzione 70 anni fa. Ecco. Certo. Senti Furio, ti faccio un'ultima domanda, tu sei un medico, no? Una domanda difficile, perché rifiutare le cure in qualche modo vuol dire anche, torno a un argomento che è quello dei vaccini, che non c'entra nulla, no? Però vuol dire anche rifiutare allora i vaccini, oppure ci sono delle differenze tra scegliere di curare o non curare se stessi e invece scegliere di non vaccinarsi nel momento in cui questa seconda scelta riguarda anche chi ci sta intorno? Finale che praticamente ti mette in grave discussione, dici ma come, tu che parli di libertario poi però poni dei limiti. Certo che anche nella libertà individuale ci sono dei limiti, il problema è che è l'equilibrio fra la libertà individuale e la libertà della società quella che crea praticamente poi delle normative avanzate. Quindi è vero che se l'abbassamento della percentuale delle persone che si vaccinano determina determina poi il rischio di un'epidemia generale, e questo è fondamentalmente il rischio, o di un danno poi individuale a nuclei familiari, certamente da questo punto di vista occorrerebbe convincere le persone, ma laddove non è possibile occorrerebbe mettere delle regole. Io penso che comunque la libertà individuale per ritornare a bomba sulla propria vita sia una cosa da prendere estremamente in considerazione. Furio Zucco, condivido, grazie. Sì, sì, assolutamente sì. Speriamo di risentirti presto, ti ritroveremo chi vuole negli incontri pubblici che tieni, sì, anche certo, in tante scuole, certo, e questo certo è un giro che state facendo come Presenza Amica in tante città, in tante scuole italiane, perché, ripetiamo, la notizia di partenza a cui ci siamo aggrappati è questa: quasi l'80% dei ragazzi delle scuole italiane dimostra di volere parlare, di voler affrontare, e quindi di avere un approccio più aperto, più innovatore forse anche su questa tematica, di cui invece si parla molto poco e soprattutto meno oscurantista, direi. La cosa bella, esatto, è che dice, intanto parliamone, nel senso che cerchiamo di capire che cosa accade. Grazie Furio Zucco, chiudiamo sentendo le parole di Umberto Veronesi, che rilanciava questo principio di autodeterminazione. Deve farsi strada in maniera sempre più consistente il principio dell'autodeterminazione, per cui un cittadino, soprattutto malato nelle fasi più avanzate della malattia, di programmare come distaccarsi da questa vita. Noi abbiamo il diritto ovvio di programmare la vita, e penso che sia molto logico che dobbiamo avere anche il diritto di programmare il termine della nostra vita. Vivere è un diritto, ma vivere non è un dovere. Eccoci qua cari ascoltatori. Allora, c'è Martino su Twitter che ci segnala un articolo dal monastero di Bose di Enzo Bianchi, La dignità del fine vita. Conosciamo bene padre Enzo Bianchi per segnalare così la diversità delle posizioni all'interno della Chiesa Cattolica. Bene, Stefano da Catania, buongiorno, benvenuto. Buongiorno a voi, mi sentite? Forte e chiaro. Vai Stefano, perfetto. Su cosa volevi intervenire? Allora, io ho lavorato molto tempo in Francia, e una volta in Francia è arrivato un ragazzo catanese, un ginecologo, io ero in ospedale, che chiaramente all'inizio aveva grossi problemi con la lingua. Allora, questo era un bel ragazzo, abbagliato dalla bellezza delle ostetriche francesi, a un certo punto in una conversazione voleva dire che Catania era un posto bellissimo dove si poteva sciare guardando il mare. Dice, se tu sali sul letto puoi sciare guardando il mare. E siccome non aveva padronanza della lingua, invece di dire skier, che vuol dire sciare, offerti un ski, fare lo sci, sì. Cosa? Ha detto skier, skier, che vuol dire fare la cacca. Sì, io lo so perché sono stato in Francia. Bella gaffe. Esatto, praticamente ha girato per l'ospedale per un mese questa gaffe. Vabbè, quelle con le lingue sono clamorose. Fare la cacca e guardare il mare, sì, che ci sta. Esatto. Infatti una ragazza gli ha detto, dice, ma pure dalla finestra del mio bagno io posso fare la cacca e guardare il mare. E quindi poi lui l'ha capito. Cioè, questo è stato l'esordio di questo giovane ginecologo. Infatti ora lavora in Francia, è stata una ginecologa marocchina. Vabbè, però non l'hanno licenziato per questo, no? No, per questo no, assolutamente no. Beh, se vincerai il libro, visto che stiamo chiedendo a tutti voi ascoltatori di raccontarci le vostre gaffe, gli errori, figuracce sul posto di lavoro, forse lo dovrai consegnare a, visto che non ti sei autodenunciato, ma è stato in qualche modo una delazione, lo dovrai consegnare a lui. Grazie Stefano, grazie. Grazie a voi. Grazie mille. 800 24 00 24, ascoltatori, vi aspettiamo. Tra poco parliamo di trenini turistici, perché c'è una proposta di legge per rianimarli, per farli rivivere. A tra poco. Tutto l'anno e all'improvviso eccola qua. Ehi, è partita per le spiagge, sono solo qua su in città. Sento fischiare sopra i tetti un aeroplano che se ne va. Grandi cambiamenti in vista? Scegli Gondrand Traslochi per il tuo trasloco internazionale. Gondrand.it vi presenta. Chi può fare? l'estate tutto l'anno e all'improvviso eccola qua. Ehi, è partita per le spiagge, sono solo qua su in città. Sento fischiare sopra i tetti un aeroplano che se ne va. Azzurro il pomeriggio è troppo azzurro. Il treno dei desideri, il treno dei desideri. Domani, domani è la giornata nazionale dei treni turistici. E in questi anni non si sa perché sono stati chiusi, abbandonati questi binari, forse perché erano antieconomici, chi lo sa. E sono stati dimenticati. Sono stati dimenticati, forse non faceva figo andare al mare in treno anziché in automobile, chi lo sa. Ma c'è chi vuole porre rimedio a tutto questo. È con noi Massimo Bottini, architetto, presidente di Comodo Confederazione Mobilità Dolce. Buongiorno. Buongiorno a tutti voi. Tra gli animatori di queste iniziative che riguardano appunto i treni turistici, quanti sono questi percorsi chiusi in questi anni che adesso si cerca di in qualche caso di far ripartire? Perché sono stati tra l'altro abbandonati? Beh, sicuramente il paese ha dimenticato per un po' di tempo questo sistema ferroviario che ne ha fatto in qualche modo un paese unitario, e il viaggio in treno per tanto tempo ha anche costituito la geografia dei nostri territori. Poi c'è stata questa cura della gomma che ha finito per cancellare questi percorsi, e da 10 anni a questa parte Comodo, la Confederazione della Mobilità Dolce, organizza ogni prima domenica di marzo la giornata delle ferrovie dimenticate. Quindi domani che succederà? Andrete a riscoprire questi binari, ma anche a farli funzionare, alcuni di questi treni, quando, se possibile? Assolutamente sì, perché in questi 10 anni abbiamo messo a punto un sistema di animazione di questi territori, sì, per cui oltre a dei sit-in su vecchie stazioni, viadotti, gallerie, da 5 anni a questa parte, grazie anche alla Fondazione FS e soprattutto a una numerosa presenza di associazioni storiche, i treni sono ritornati a viaggiare. Ecco, ci fa qualche esempio dove domani per esempio si potrà rivivere queste esperienze? Beh, sicuramente sulla famosa Transiberiana d'Italia, da Sulmona ad Isernia, domani ci sarà il treno storico che viaggerà grazie a questa associazione delle rotaie che da qualche anno si sta battendo proprio per far sì che questo, sì, viaggio, conosciuto come la Transiberiana, certo, d'Italia, possa essere. Io per esempio, non solo un treno turistico, esatto, ma anche treno, prego. Sì, ma anche un treno che garantisca nella quotidianità, perché credo dopo queste 10 edizioni siamo nella condizione di immaginare un uso turistico per il fine settimana di questi treni, ma anche un uso quotidiano. Ecco, ci accontenteremo comunque già anche dell'uso turistico, perché sarebbe comunque una gran bella cosa. Io sono nato a Pisa, una città vicina al mare, mi hanno raccontato, ma io non ho mai avuto modo di vederlo, che c'era un vecchio treno che portava al mare, e chissà perché anche in questo caso è stato abbandonato. Adesso l'estate, per andare al mare, siamo tutti imbottigliati sulla strada, non si capisce perché non questa ferrovia è stata abbandonata. C'è anche una proposta però di legge, no? C'è una proposta di legge sostiene. Già approvata alla Camera, in questo momento in discussione al Senato, quindi prossima alla definitiva approvazione. Il 18 linee ferroviarie prevede l'uso turistico del treno. Quali sono i vantaggi che noi ci immaginiamo, no? Al di là dell'effetto nostalgia, che è un effetto anche già di per sé potrebbe giustificare anche la riapertura di alcuni di questi trenini, però c'è un vantaggio proprio anche, insomma, lo diceva anche lei, no? Forse per la mobilità. Assolutamente sì, perché effettivamente l'auto, che qualche decennio fa per noi rappresentava la libertà, oggi non è più libertà, quando ci ritroviamo imbottigliati queste code, sicuramente ci ritroviamo prigionieri in queste scatole. Per di più il fatto che si viaggia spesso soli in queste auto, e il viaggio in treno non è solo un viaggio che ci fa scoprire dei finestrini. Si socializza, certo, assolutamente, come no? Certo, soprattutto d'estate, sociale, nei luoghi di vacanza, come no? È un viaggio sociale, quindi questa idea di ritornare in qualche modo a parlare con compagno di viaggio è l'elemento che sempre abbiamo rivendicato come comodo. Quindi ma è molto, edizione... è molto costoso fare riaprire, perché io immagino l'obiezione di costa troppo, no? Non ci sono soldi per riaprire questi binari, per farli riaprire. E anche la questione sicurezza, perché sicurezza, c'è qualcuno che dice no, quelle più piccole, quelle che non sono sicure, che non fanno parte dei percorsi soliti, sono meno sicure. No, assolutamente non è vero questo, in quanto noi dobbiamo fare un bilancio veramente 360 gradi. Ai fini proprio del riscatto sociale e economico dei territori, un'infrastruttura ferroviaria in realtà è veramente la spina dorsale su quale poter immaginare anche tutto un altro sistema di intermodalità, perché poi da un treno effettivamente possiamo immaginare anche una diramazione di percorsi dolci, quali ciclovie, quali ippovie, quali cammini nei territori. Quindi effettivamente sì, va fatta una seria analisi anche economica e geografica di percorsi che in qualche modo possono infrastrutturare il nostro paese. Le vorrei segnalare Bottini, in quanto presidente di la Confederazione Mobilità Dolce, un ascoltatore che chiede rimettere in funzione la cremagliera storica che va da Trieste fino ad Opicina. C'è un trenino anche lì che dice che è bloccato da tempo, credo l'aver capito, da causa di un incidente. Quindi glielo volevo segnalare, perché se lo può aggiungere all'elenco dei trenini turistici. Voglio proprio invece rilanciare questa operazione, perché noi domani partiremo con la prima domenica e quindi la prima giornata delle ferrovie ormai non più dimenticate, ma all'interno di un mese della mobilità dolce. E proprio a conclusione delle iniziative che si svolgeranno per tutto il mese. Dobbiamo chiudere. Sì, no, le dico questo, fino al 9 aprile noi andremo proprio, faremo una maratona ferroviaria transfrontaliera da Trieste proprio a Villa Opicina. Poi bene, però devo fermarmi qua perché c'è il giornale radio. Grazie Bottini, ci sentiamo. Si può fare. Cronache da un paese migliore. Chi vive in baracca, chi suda il salario, chi ama l'amore, i sogni di gloria, chi ama la zia, chi va a portare via. Il nuovo centro per le previsioni meteo, che troverà sede a Bologna, una bella notizia, un'occasione anche per risentire il cielo è sempre più blu di Rino Gaetano. E con noi però il ministro dell'ambiente Gianluca Galletti, buongiorno. Buongiorno a tutti gli ascoltatori e a lei. Buongiorno ministro. Benvenuto. Allora ministro, questa è una buona notizia, ancora oggi i giornali comunque ne stanno parlando, il nuovo data center del Centro Europeo per le Previsioni Meteo a medio termine. Di cosa si tratta, ministro? Che importanza ha per Bologna, ma anche per l'Italia, questa sede, questa notizia? Si tratta di un nuovo centro di calcolo, un supercomputer, per descriverla in maniera comprensibile, che elaborerà tutti i dati per mettere a punto le previsioni meteorologiche per tutta Europa. È importante perché diventa il collettore di dati che possono essere utilizzati poi per vari scopi, e soprattutto porta tecnologia, ricercatori, porta innovazione, e credo che questa sia la cosa di cui noi abbiamo bisogno per il futuro, non solo, certo, ma avere anche una peculiarità, una specialità nelle previsioni per il nostro paese è particolarmente importante, perché la previsione rientra in quell'ambito, in quel grande ambito che noi richiamiamo spesso della prevenzione, nel senso che conoscere prima gli eventi meteorologici, certo, con precisione ci permette poi anche di allertare la protezione civile, di avere un intervento più mirato, di risparmiare vite umane e anche di risparmiare costi. Quindi ci sono varie sinergie. È importante che sia Bologna, perché? Perché Bologna è di fatto la capitale del big data europea, perché a Bologna c'è il Cineca, che è il centro elaborazione dati di tutte le università italiane, di gran parte delle università italiane. C'è una sede del CNR, una sede dell'Enea, c'è l'università stessa che è portatrice di innovazione. Quindi diventa anche un centro di elaborazione dati, non solo meteorologici, ma molto importante. Il passaggio successivo sarà di mettere in comunicazione tutti questi dati. Senta, per una volta saremo in grado quindi di trattenere qualcuno di queste eccellenze, di cervelli, di talenti italiani che spesso le cronache ci raccontano come invece debbano andare all'estero per trovare un lavoro, è uno scambio, cioè ci sono talenti che arrivano dall'estero in Italia, magari meno di quello che succede al contrario con i nostri cervelli in fuga. Quindi che previsioni ci sono anche sulla possibilità di impiegare giovani ricercatori italiani a Bologna in questo nuovo centro? Molte, perché questo centro può avere, come dicevo prima, degli sviluppi oltre la meteorologia. Noi abbiamo identificato a Bologna un posto fisico, una logistica dove inserire questo centro, molto vasta, perché l'ex manifattura tabacchi è un posto, per intenderci, di 9.000 metri quadri attuali, dove è espandibile per altri 6.000 metri. Quindi, infatti, quando prima parlava di mega computer, mi immaginavo questo mega computer di 9.000 metri quadri e devo, ho detto, beh, almeno sapremo se piove. Speriamo. No, il computer però è grande. Io ho visto il progetto, già il computer di per sé stesso occupa molto molto spazio. Ma poi ha bisogno chiaramente anche di tutto un suo... Ecco, esatto, speriamo questi 9.000 metri quadri di vederli riempiti anche di uffici di giovani. Ma anche perché si parla poi di un ampliamento di altri 6.000 metri quadri, quindi sarà un polo veramente gigantesco e che darà lavoro a un sacco di persone. È il polo tecnologico, diventa proprio un luogo dove fare innovazione e fare ricerca. Tutto collegato, ripeto, alle eccellenze che già ci sono a Bologna. Quindi Bologna si può davvero candidare per diventare un centro di innovazione nel big data molto importante. Tutto certo. Questo con il supporto dell'università, che è indispensabile, indispensabile in questo senso. Cioè ci saranno molte persone impegnate, ma l'importante di questa cosa è che saranno persone di alto livello, di alta professionalità. Assolutamente. Quindi... Senta, immagino già l'obiezione di qualche scettico, come sempre, che si chiederà, ma ci sono degli investimenti da fare, li farà l'Italia, arriveranno dall'Unione Europea, come dal punto di vista economico, come se è possibile, diciamo, anticipare qualcosa, come sarà gestita questa fase? Allora, io ho sottolineato più volte che questo è un primo passo. Perché Bologna è stata identificata, ma come prevede la convenzione che abbiamo con gli altri paesi soci del centro meteo, nei prossimi 6 mesi noi dovremmo stabilire il cosiddetto contratto di sede. Nel contratto di sede ci saranno le risorse economiche, le persone che si spostano, quindi bisogna ancora passare al progetto concreto vero e proprio. Certo, certo. Sì, noi abbiamo presentato già un progetto molto dettagliato, tant'è vero che abbiamo, uso questo termine impropriamente, sbaragliato la concorrenza, nel senso che era ambito questo centro, c'erano altri paesi. A proposito, no, di questa ambizione giusta che lei ricordava, ora questo per l'Italia è un successo, già anche per l'Emilia in particolare, avere già avuto a Parma l'autorità per la sicurezza alimentare, adesso un altro successo a Bologna, sperando che poi nei passaggi successivi ci siano tutte le necessarie conferme. Come mai però noi italiani, come è stato possibile raggiungere questo risultato? E le chiedo anche come mai noi italiani invece abbiamo sempre la sensazione di essere un po' vittime in Europa, viviamo l'Europa come un peso e non come un'opportunità. In questo caso succede proprio il contrario. Guardi, noi quando facciamo le cose fatte bene e ci mettiamo l'impegno, non abbiamo concorrenti, perché siamo in un paese non solo bello dal punto di vista naturale, me lo faccia dire come ministro dell'ambiente, ma abbiamo moltissime eccellenze. Il problema spesso è farle emergere queste eccellenze e metterle a lavorare insieme. Io su questo progetto ho lavorato col governo prima di tutto, con la copertura del Premier Renzi prima e poi del Premier Gentiloni poi, con il Ministero dell'Istruzione, col Ministero delle Finanze, e soprattutto ho trovato un humus a livello locale, dalla Regione in particolare, dal Presidente Bonaccini, dall'Assessore Bianchi, molto molto forte. A questo si è aggiunto un contributo importantissimo dell'Università, dell'Enea, del CNR, cioè abbiamo fatto un progetto di sistema proprio, e questo ci ha permesso di presentare un progetto migliore degli altri, perché avevamo tutto dentro, avevamo dalla logistica, dalla copertura politica, dalla copertura scientifica e della ricerca, dalla parte ambientale, cioè avevamo veramente tutto. Insomma, quando ci mettiamo a giocare la partita utilizzando tutte le armi a disposizione è difficile batterci. Senta Ministro, se vuole restare con noi abbiamo una piccola pausa per informazioni sul traffico, poi vorrei affrontare con lei anche gli investimenti sul dissesto idrogeologico recentemente annunciati, che si spera possano essere sempre però di più in realtà di quello che si vede, perché ce n'è tanto bisogno. E poi l'accordo europeo sulle emissioni di gas di gas inquinanti, che dicono però avere messo un po' in contrapposizione un fronte come quello dell'Italia e della Germania, più preoccupati per le ricadute sull'industria, e un fronte più ambientalista guidato dalla Francia. Tra pochissimo 800 24 00 24, poi risentiremo naturalmente anche gli ascoltatori, ai quali continuiamo a chiedere anche le loro gaffe, le loro più brutte figure che hanno fatto sul posto di lavoro, come è successo nella notte degli Oscar, e la telefonata che ci convincerà di più, come sempre anche oggi si porterà a casa un libro. A dopo. Eccoci qua, 9:18 minuti, di nuovo in compagnia del Ministro dell'Ambiente Gianluca Galletti. A proposito di questo piano di investimenti per il dissesto idrogeologico, c'è una previsione con 500 progetti per un totale di 2 miliardi di euro di interventi. È l'impatto complessivo che il suo Ministero valuta per questi interventi, appunto, che sono stati fatti insieme alla struttura del governo Italia Sicura. Adesso io le chiedo, benissimo, però sappiamo che ci sarebbe bisogno sempre di più, no, di questo tipo di investimenti. Poi con la crisi occupazionale di questi anni, perché in Italia non si immagina mai un piano Galletti più ambizioso, 10, 15, 20 miliardi di euro per recuperare il paesaggio, il territorio, mettere in sicurezza dal rischio sismico le abitazioni italiane? Sembra sempre che si vivacchia su questo fronte, o no? Noi abbiamo in questi anni fatto il piano nazionale con il mio ministero e la struttura di missione, cioè abbiamo identificato tutte le opere da fare e le abbiamo messe in ordine di priorità identificate con alcuni criteri che vanno dalla pericolosità, dal grado di pericolosità del territorio fino allo stato di avanzamento dei progetti. Perché dico questa cosa, stato avanzamento progetti? Perché uno dei problemi che abbiamo noi è sicuramente trovare le risorse, ma accanto a questo un altro grave problema è spenderle queste risorse. Cioè io non vorrei che passasse il principio che una volta trovati i soldi l'intervento è fatto. Diciamo che si risolve metà della questione, poi sappiamo bene che c'è l'altra questione, quella burocratica. Neanche metà. Noi il problema ce l'abbiamo nella governance del processo di spesa. Ce l'abbiamo lì, perché... Però vedi, in un modo o nell'altro, Ministro, bisogna che si risolva o mettendo i fondi adeguati o risolvendo queste lentezze burocratiche che bloccano i progetti, perché di questo l'Italia ha bisogno. E torno a dire, sarebbe un volano anche per l'economia con un piano che dà lavoro a centinaia di migliaia di ingegneri, geologi, architetti. È solo un sogno questo, potrebbe diventare realtà. Potrebbe, sì, deve diventare realtà, io su questo non ho dubbi. Però quando noi, adesso non voglio fare polemiche per l'amor di Dio, però noi abbiamo un sistema per cui gli interventi sul dissesto idrogeologico spettano alle regioni. Allora, ci sono alcune regioni che per struttura, non per volontà politica, hanno difficoltà a spendere quei soldi. Hanno molte difficoltà. Io, uno dei miei primi provvedimenti è stato quello di dare poteri straordinari ai presidenti di regione, proprio per sveltire questo processo di governance. È servito, ma è servito meno di quanto servirebbe invece. Ma e come mai allora, non si riesce a costituzionale, scusi, prego, prego, la riforma prego. Costituzionale andava proprio in questo senso. Che però adesso è acqua passata a questo punto. Un unico centro di spesa. Sì. Perché allora in quel caso lì la governance diventava unica. Allora bisogna che noi, ed è lo sforzo che abbiamo fatto in tutti questi anni, proviamo a rendere più incisiva la governance della spesa, cioè la metodologia di spesa. Per quanto riguarda le risorse, noi ne abbiamo messe parecchie perché è la prima volta che c'è un impegno così forte. Se quei soldi, se quelle risorse venissero spese in tempi brevi, mi impegno io a trovare altre risorse. Quanto da quando lei è ministro, governo Renzi e governo Gentiloni, quanto è stato stanziato su questo fronte del dissesto idrogeologico? C'è una cifra che è in grado di fare? Allora, io ho già firmato accordi con le regioni, sì, e i soldi sono in cassa, questo più di un anno fa, per 800 milioni di euro. Accanto a quelli, da quanto a questi, ci vanno tutti quelli firmati con i patti della regione, con le varie regioni, per cui arriviamo intorno ai 2 miliardi di euro. Che è il famoso impatto che ci si aspetta da tutti questi progetti. Sì, dal momento che c'era un problema sulla progettazione, proprio ieri abbiamo anche fatto il decreto di riparto dei soldi per la progettazione, quindi finanziamo anche la progettazione proprio per accelerare la spesa. Oggi gli elementi ci sono tutti, oggi quei soldi bisogna spenderli. Detto questo, alcuni cantieri sono partiti. Ma troviamo delle soluzioni per risolvere questa questione della governance, perché giustamente lei diceva tutto questo era dentro nella riforma, però il referendum non è passato, quindi la riforma non c'è stata. Perché da un certo punto di vista è più tranquillizzante quello che lei sta dicendo, perché lei dice i soldi ci sono, è che abbiamo un problema di governance e non sappiamo come spenderli. Ma si riuscirà a risolvere questo problema della governance? Allora, e quindi finalmente spenderli? Io credo che con i poteri straordinari dati ai presidenti delle regioni abbiamo semplificato molto il sistema. Adesso però ci vuole la volontà politica di spenderli, ci vuole la volontà politica di aprire i cantieri. Io dico che un'accelerazione c'è sicuramente stata. Io vedo in alcune regioni che i cantieri incominciano ad aprirsi. Abbiamo avuto casi molto virtuosi, penso ancora all'Emilia Romagna, che in quegli 800 milioni, 20 milioni erano destinati al ripascimento della costa adriatica. Sì. Quei soldi sono già stati spesi e i lavori già fatti e conclusi. Ecco, mi raccomando, ministro, faccia come gli Umarell, sa quelli che vanno ai lati dei cantieri a vedere. Esatto, perché lei è bolognese, vada a controllare cantiere per cantiere, che in effetti questi lavori partano. Senta, l'altra notizia, oltre a celebrare insomma questa buona notizia per Bologna e il nuovo centro per le previsioni meteo in quella città, un risultato importante per l'Italia, c'è stata però una notizia in sede europea, l'accordo dei ministri per l'ambiente sul negoziato per il mercato delle emissioni, no? Di CO2. Sì. Intanto ci può spiegare che cos'è questo mercato delle emissioni, perché non è chiarissimo. Noi abbiamo un target europeo di riduzione dell'emissione di CO2 al 2030 di almeno il 40%. Avevamo un target al 2020, adesso prorogato fino al 2030, che poi fa parte del grande accordo di Parigi, certo, l'obiettivo europeo che abbiamo portato a Parigi. Come intendiamo ridurre questo 40%? Intendiamo ripartire questo 40% un po' sulle imprese e un po' su tutti gli altri settori. Allora, sull'apparato industriale, la riduzione identificata a livello europeo al 2030 è del 43%. Per intenderci, le emissioni di CO2 di tutta l'industria europea da qui al 2030 deve essere ridotta del 43%, obiettivo molto ambizioso, perché vuole dire quasi tagliare del 50%. Allora, il resto, un'altra parte, viene invece chiesto di ridurre agli altri settori, che sono il riscaldamento, i trasporti, quelle delle città, eccetera. Concentriamoci su quello delle industrie. Questo sistema si chiama ETS, Emission Trading System. Come agisce? Questo esisteva già e oggi lo stiamo revisionando. Viene dato un tetto di emissioni per ogni tipologia di impresa. Se io emetto di più di questo, sì, perché non riesco a stare dentro il tetto, posso andare a comprare delle quote sul mercato che si chiamano certificati. Il famoso diritto di inquinare. Che mi permettono di emettere di più. Sì. Sì. Però che cosa accade? Che ho un costo aggiuntivo. Quindi più le quote costano, più io ho il vantaggio di efficientare il mio impianto. Ma non questo si torna nella logica per cui se io pago posso inquinare? Ma c'è un sistema per cui se io pago vado fuori mercato. Però io non posso neanche da un giorno all'altro chiudere le imprese. Certo. No? Perché qui è sempre il bilanciamento fra le esigenze industriali e le esigenze ambientali. Esatto, ma è questo accordo raggiunto perché si è detto che c'era un fronte con l'Italia e la Germania più attento alle ricadute sulla industria e un fronte più sensibile invece alla questione ambientale guidato dalla Francia, è vero? No, allora, detto che tutti siamo d'accordo a instaurare un sistema che ci permetta di arrivare all'obiettivo del meno 43%, e lo dico a nome del mio paese, dell'Italia, noi vogliamo rispettare pienamente quelli che sono gli obiettivi che abbiamo portato a Parigi di riduzione di CO2 per tutti i settori, sia ETS che non ETS. Il problema è di trovare delle regole che non penalizzino alcuni paesi rispetto agli altri. E questo accordo raggiunto secondo lei è soddisfacente? Stiamo parlando di questo. L'accordo non è ancora stato raggiunto, nel senso che il Consiglio Ambiente di martedì scorso ha messo a punto una proposta che dovrà essere discussa con il Parlamento e poi tornerà in Consiglio. Quindi ancora nessuna decisione è stata presa. Su questo documento alcuni punti ci convincono, altri ci convincono meno. Quali sono quelli che convincono meno l'Italia? È molto molto tecnico, perché si tratta della metodologia col quale vengono cancellate le quote in surplus da qui al 2030. Questo metterebbe l'industria italiana in una condizione di svantaggio rispetto alle altre, ma non vuole dire essere meno ambiziosi, assolutamente, vuole dire mandare le bevute pari, ecco, diciamo così. E ancora una volta viene fuori il lato bolognese del ministro. Grazie Galletti per essere stato con grazie noi. Grazie mille, ministro. Noi abbiamo voluto intanto celebrare questa notizia, che è una buona notizia, non si può fare, importante per l'Italia, il nuovo data center sul meteo a Bologna. Poi le tematiche sono tante, alcune questioni sono aperte, come questo accordo in Europa sulle emissioni, il diritto di inquinare. È vero quello che dicevi tu, sembra di tornare al fatto che pago, inquino. Che era una logica dalla quale si cercava di uscire, no? Soprattutto per quello che riguarda tipo inquinare i fiumi. Uno dice non ha prezzo forse inquinare un fiume, però è anche molto giusto il fatto di dire se un pochino devo inquinare, compro delle quote di inquinamento ad altri, di modo che non si alza l'inquinamento totale. Quindi è una difficile... se impari a non inquinare, un'industria che impara a non inquinare può acquistare questi diritti e quindi incassare. Può vendere i propri diritti, esatto, e quindi vendere. Incassare e spendere meno. 800 24 00 24 se vi ha convinto la ricetta del ministro dell'ambiente Galletti, ma anche se volete chiamarci per raccontarci lo sfogatoio che questa mattina vi proponiamo riguarda le gaffe, gli errori imperdonabili che accadono sul posto di lavoro, così come è accaduto a quel signore che ha portato la busta degli Oscar sbagliata e che poi è stato licenziato perché stava twittando, è per quello che si è distratto. 800 24 00 24 verso la sua voce, senza mai fiatare. Grida forte ma nessuno lo sta ad ascoltare. Chi chiude tutta la sua storia in uno sbaglio, chi la prende come viene, chi la tira al guinzaglio. Chi cade sempre a causa dello stesso errore, chi si abitua a quel dolore che lo fa star male. Chi non piange soltanto lacrime amare, ma anche per la gioia e lo stupore di sentire amore. Chi pensa di essere grande, ma tutto è distante, che il mondo scivola e lui resta solo in mutande. Chi spreca la vita per niente, butta via tutto per sempre, non si accorge che era l'unica cosa importante. Chi non ci pensa, chi ci pensa troppo, le scelte da fare. Chi coglie l'attimo, chi invece lo lascia scappare. Chi sa sempre che alla fine potrà tornare e troverà qualcuno lì pronto ad abbracciare. Ma non ti chiedi mai se tutto quel che hai. Qua si balla, eh? Qua ci si muove come dei rapper. Questa è Si può fare, come tutti i sabati e le domeniche mattina su Radio 24. E questa che abbiamo appena ascoltato è Polvere di stelle, una canzone che ci è stata inviata dal cantante stesso Francesco Travaini, che ci ha inviato questo pezzo e ci ha scritto: la mia canzone ha come tema quello di non sentirsi mai troppo piccoli per i progetti in cui si investe energia, dedizione e passione, ricordandoci che saremo pure polvere, ma polvere che viene dalle stelle. Vabbè, come ben sapete. Esatto, sì, ma di là dell'autopromozione, sì, noi siamo sempre in cerca di dei si può fare in musica, quindi se voi siete dei cantanti, dei compositori, dei musicisti, ma in realtà anche semplicemente degli ascoltatori, vi imbattete, esatto, in una canzone, una compilation, una nostra compilation, la si può fare compilation come negli anni 80, special, solo in musicassetta la faremo, esatto, ovviamente. No, vi chiediamo se vi imbattete in una canzone che secondo voi ben racchiude il concetto di si può fare, di inviarcela sui nostri account social. Lo potete fare mandandoci una mail a si può fare chiocciola radio24.it, oppure su Facebook si può fare trattino radio24, oppure su Twitter chiocciola si può fare 24, oppure anche sui nostri account personali, molto semplicemente il mio è chiocciola Carlo Gabardini e c'è anche il mio chiocciola Ale Maurizi. Abbiamo realmente una lunga casistica di musica, di canzoni, non tutte riusciamo a mandarle in onda, anzi una piccola parte, alcune perché sono realmente autoprodotte e quindi forse non sono neanche del tutto degne di andare in onda, quindi chi ma va in onda sia tutto, orgoglioso, perché vuol dire tutto, che esatto, ha superato anche un po' il vaglio musicale qua della redazione di Radio 24. Stefano dalla provincia di Ascoli Piceno, buongiorno, tra poco Crowd Me Up, vai Stefano. Buongiorno, buongiorno. Buongiorno. Cosa volevi intervenire? Allora, volevo intervenire per raccontare la mia storia al lavoro, per la mia brutta figura. Prego. Che ti è successo? È successo che noi abbiamo un'azienda sul livello nazionale e io la vigilia di Natale per alcuni anni ho fatto un presente dato dalla nostra direzione provinciale a quella nazionale, e era portare del pesce fresco dalla regione adriatica, da San Benedetto del Tronto. A chi lo portavi questo pesce? Alla direzione nazionale, al direttore, però anche al suo autista, e io ho scambiato il pesce, cioè ho dato il pesce piccolo al pesce grande, cioè quindi poco pesce. No, perché scusa, cioè l'autista aveva il pesce piccolo e il direttore il pesce grande? Non è giusto questo però, pronto? Direi che la direzione è intervenuta. La direzione che ha ricevuto il pesce piccolo è intervenuta, oppure forse è l'autista con il pesce grande che è intervenuto per ringraziarlo e quindi è caduta la linea. È per censurare questa comunque audizia. Direi che è una storia di scambio, no, però, di pacchi, giusto? Sì, ero curioso di sapere questa storia del pesce, a parte che come regalo a Natale il pesce fresco è impegnativo, perché come lo consegni, cioè nel senso porti proprio la cassetta col ghiaccio, non lo so. Vediamo di recuperare Stefano per chiudere questa storia sul fatto che rimaniamo appesi con questo dubbio pazzesco se il pesce è arrivato o no. Un pesce piccolo poteva essere un pesce prelibato importante, un aragosta piuttosto che un'uscita del tipo le dimensioni non contano. Esatto. Maria dalla provincia di Viterbo, buongiorno, in attesa di ritrovare Stefano. Vai Maria. Sì, buongiorno. Buongiorno. Allora, la mia gaffa è stata dolorosa per tanti anni e oggi mi sono sentita di liberarmi da questa brutta brava figura. Sfogati, prego. Dopo, vai Maria. Sì, dopo la morte di mia madre, quando sono tornata al lavoro, sì, i colleghi mi sono venuti incontro e il primo che ha fatto le condoglianze ha risposto: grazie altrettanto per le condoglianze. Cioè qualcuno le ha detto condoglianze e lei ha risposto grazie altrettanto. Le ragazze hanno cambiato espressione. spero che invece gli abbia portato fortuna a questo ragazzo, certo. Che era un ragazzo. Non era però un suo superiore, Maria, no? Era solo un collega. Non era un mio superiore, fortuna. Vabbè, meglio così. È una gaffa siamo felici che si sia liberata di questo brutto ricordo, sì. Comunque, che non mi sembra gravissimo. Ecco. Allora, abbiamo Stefano? Ce l'abbiamo? No, non ce l'abbiamo più. Allora, Maria, se vuole, rimane con noi, sarà una delle nostre giurate del Crowd Me Up, due progetti che cercano il vostro aiuto, finanziamento dal basso. Vai! Crowd Me Up, la voce del crowdfunding, in collaborazione con Apple. Allora, come ogni sabato mattina, sono due progetti che abbiamo scelto dalla piattaforma di Apple, il crowdfunding più grande d'Italia. Li metteremo in gara uno contro l'altro per conquistare il voto dei nostri giurati. Sono gli ascoltatori che dicono la loro su questi progetti. Cominciamo a conoscere il primo di questi due progetti. Vai. Allora, tanto sono due progetti, uno è un evento artistico, l'altro è una app per la sanità pediatrica, quindi due ambiti molto diversi. Il primo progetto è una campagna per sostenere la seconda edizione del Art Performing Festival, la manifestazione che porterà l'arte contemporanea performativa, siamo già curiosi di sapere di cosa si tratta, in alcuni dei luoghi storici più belli di Napoli. È una rara possibilità per giovani artisti italiani e internazionali, appunto, per far sentire la propria voce. Attraverso il crowdfunding gli organizzatori vorrebbero raccogliere 2.500 euro. Ne parliamo con Gianni Nappa, critico d'arte e curatore del festival. Benvenuto. Buongiorno. Gianni, buongiorno. Buongiorno, eccolo a voi. Qua. Allora, un minuto o poco più per spiegare perché possiamo sostenere questo progetto. Va sostenuto questo progetto perché i sogni si realizzano sempre attraverso la rete. Noi da soli non possiamo far nulla, è l'unica ipotesi che abbiamo di vivere con gli altri tutte le cose belle e riuscire a esitare anche dei progetti che diventino continuativi. Napoli è una città che esprime tanta storia, è una città che mette insieme tante creatività. E chiaramente la mia idea iniziale l'anno scorso, quando ho fatto la prima edizione, è stata quella di mettere un contenitore per i giovani emergenti e per tutte quelle persone che non hanno avuto ancora fortuna di poter esibirsi in contesti di una certa importanza o con gallerie grandi. E la creatività non ha confini. La performance di per sé è l'unica forma d'arte che non si vende, quindi l'unica cosa che si acquisisce è una bella emozione che ti ritornerà in mente dopo 10, 20, 30 anni e ti farà considerare che forse quell'artista aveva visto giusto nelle criticità del mondo, dando il piccolo proprio apporto con la propria azione performativa. Quindi il corpo, tutte le dimensioni del visivo e tutto quello che mette in correlazione la possibilità di condividere. E noi abbiamo fatto, ecco, una rete tra artisti. Va bene Gianni, si è suonato il gong nel frattempo, quindi simbolicamente esaurito il tempo a disposizione. Beh, insomma, questo tra l'arte e il crowdfunding è un connubio che funziona, tante volte molte eventi, anche artistici, cercano il finanziamento dal basso, vedremo se anche questa volta avrete successo. Quali sono le date del festival? Possiamo già dirlo? Sì, il festival si terrà dal 7 luglio al 7 agosto con il Castel dell'Ovo con le mostre e con 12 luoghi storici di Napoli dove si avverranno le performance. Quindi in piena estate napoletana. Allora, sì. Cari giurati, ascoltatori, Maria, credo Stefano e forse anche un'altra ascoltatrice, Maila da Prato, restate in belli concentrati, secondo progetto che vi andiamo a presentare. Si intitola Hai mai visto dottori dotati di superpoteri? È un titolo molto originale e curioso. È la campagna nata per sostenere lo sviluppo di superpoteri, la app che, grazie alla realtà aumentata, trasforma le visite mediche in magiche avventure. Ma di che si tratta? È un po' tipo Pokémon Go, sì. Direi. Grazie alla tecnologia, di fronte agli occhi dei giovani pazienti, compaiono maghi e supereroi che trasformano i paurosi strumenti del dottore in oggetti fantastici. Per portare questa app nei reparti pediatrici di tutta Italia servono 10.000 euro. Ce ne parla Alberto Piras, l'inventore di Superpoteri. Buongiorno Alberto. Buongiorno a tutti. Buongiorno. Benvenuto. Anche a te un minuto di tempo, anche più, per spiegare come e perché possiamo sostenere questo progetto dal nome curiosissimo. Grazie mille. Dunque, noi abbiamo sviluppato Superpoteri per far sì che i bambini non abbiano paura dei medici e dei dentisti. Giocando sull'analogia medicina e magia, noi trasformiamo il momento della visita proprio in un'avventura fantastica. Superpotere attualmente viene già utilizzato in oltre 400 studi dentistici, all'interno dei quali, grazie alla realtà aumentata, i bambini vedono apparire un mago medico che parla con loro e li accompagna in un mondo fantastico dove possono scegliere l'eroe in cui trasformarsi. Dopo la visita, inoltre, possono ottenere i propri superpoteri collezionando le carte magiche che prendono vita se inquadrate con la nostra applicazione. Da questo mese inizieranno a usarlo anche i reparti di oncoematologia dei hospital di due ospedali di Cagliari e per loro abbiamo realizzato una funzione particolare della nostra app, un detector di magia. Semplicemente inquadrando i nostri poster, i bambini vedranno apparire i nostri personaggi in 3D e inquadrando degli adesivi apposti sopra le sacche della flebo, queste si trasformeranno in pozioni magiche. Questa campagna crowdfunding ci permetterà di completare questa funzione e di realizzare nuovi modelli 3D che potranno interagire con i bambini per rendere l'esperienza molto più coinvolgente. Ma scusa, quindi i bambini devono avere in mano il telefonino per poter vedere la realtà aumentata? Sì, direttamente dallo smartphone o dal tablet dei genitori. L'applicazione funziona sia Android che con iOS, certo. Quindi con gli strumenti dell'Apple. I bambini possono vedere apparire davanti a loro, semplicemente inquadrando i nostri poster o i nostri materiali, i personaggi o le pozioni magiche che trasformano gli strumenti che normalmente terrorizzano purtroppo. Certo, quindi io sto seduto sulla seggiola del dentista, guardo lo smartphone e in realtà invece che vedere il trapano che mi entra in bocca vedo un'altra cosa, giusto? È questo? Ho capito bene? Sì, per il dentista proprio non viene utilizzata l'applicazione durante la cura, ma per camuffare diciamo il trapano del dentista abbiamo creato anche delle speciali cover che rivestono questo strumento. Mentre ad esempio negli ospedali durante purtroppo mai la chemioterapia, certo, i bambini potranno vedere che inquadrando la flebo loro vedranno qualcosa, una pozione magica che diciamo possono prendere perché gli dia forza e coraggio per... Va bene Alberto, io ho una bambina di 5 anni e mezzo e in effetti immagino, cioè penso che questo è un progetto che va veramente incontro alla necessità dei bambini che devono sottoporsi a delle cure piccole e grandi che siano naturalmente. Allora, cari ascoltatori giurati, vi chiediamo a questo punto di dire la vostra. Maria dalla provincia di Viterbo che ci ha raccontato la sua gaffa di ritorno al lavoro dopo un lutto. Maria, quale dei due progetti? Sì, secondo me è il secondo, perché sì, ecco, aiutare i bambini in un momento così delicato e anche stimolando la loro fantasia è importantissimo. Quindi il secondo progetto. Bene, stimolare la fantasia dei bambini in un momento delicato come quello della cura di una malattia e quindi il progetto dei superpoteri. Stefano da Ascoli Piceno, tra l'altro ti ritroviamo, dovevi sì, anche finire di raccontarci sì, la storia, sì, del pesce. C'era sì, pesce piccolo, pesce grande. Com'è sì, finita? Poi è finita che ho consegnato il pesce sì, grande al pesce piccolo che era l'autista, di conseguenza poi ho subito un po' per qualche mese qualche difficoltà al lavoro. Non ti hanno licenziato però, no, non è stato fatale. Ma però hai guadagnato un amico, cioè l'autista. Sì, l'autista, poi l'ho rincontrato un paio di anni dopo e l'ho raccontato, mi sembri una faccia conosciuta, mi ha detto, certo, gli ho raccontato. Ma che pesci erano, scusa, pesce piccolo e pesce grande, che pesci erano? No, erano pesce fresco per la sì, cena della vigilia di Natale, quindi era pesce diciamo importante. Era un po' di tutto, cioè di pesce naturalmente a chilometro zero che si trovava sulla costa adriatica in quel periodo invernale, perché era andato a prenderlo alle 4 del mattino al mercato del pesce lì a San Benedetto, che è abbastanza famoso San Benedetto del Tronto, quasi momento prologo di Stefano che ci fa la pubblicità del mercato del pesce di Ascoli. Senti, quali due progetti invece tra l'app con i superpoteri per i bambini nei reparti pediatrici e invece le arti performative a Napoli, quali due progetti ti ha convinto di più? Io sono, anche se un po' mi sento hobbista, però artista, perché facevo da giovane i graffiti e quindi propendo anche per par condicio con il primo, quindi Art per Performing Festival, benissimo, sì, sì, e sì, quindi è un pareggio, un applauso per tutti e due i progetti. Beh, ci piace quando c'è ci il pareggio, ci piace molto salomonico, perché soprattutto ricordiamo che non è che si vince uno dei due progetti scompare dalla piattaforma, ma entrambi i progetti li trovate sulla piattaforma di Apple. Hai mai visto dottori dotati di superpoteri? Il progetto della app Superpoteri che vuole svilupparsi, invece il Festival delle Art Performing a Napoli quest'estate. trovate, e quindi trovate tutto sulla piattaforma di Apple. Noi salutiamo Alberto Piras e Gianni Nappa, grazie per essere stati con noi. Crowd Me Up torna la settimana prossima, noi invece torniamo tra pochissimo dopo il traffico. Crowd Me Up, la voce del crowdfunding, in collaborazione con Apple. Faircam Air & Ocean, spedizioni mare aereo in mani sicure e pratiche doganali risolte. Faircam.com vi presenta... The railroad track, hot dog. You say you're coming home for good, hot dog. I'm gonna keep on knocking wood, baby. I can hardly wait. I'm gonna meet you at the gate, hot dog. Hot Dog è il protagonista di questa canzone di Elvis Presley, che è Hot Dog, che è anche il protagonista della prossima notizia. Niente Würstel in Germania nei menu ufficiali. La ministra dell'ambiente praticamente chiude un'epoca e mette i tedeschi tutti sul piede di guerra nei suoi confronti. Ma chissà, sarà vero. È con noi Andrea Bertaglio. Ciao Andrea. Ciao, ciao a tutti, buongiorno. Buongiorno. Un collega, un giornalista, soprattutto di temi ambientali, che vive in Germania da un po' di tempo. Andrea, allora, il paese è veramente a una svolta. La ministra dell'ambiente che dice d'ora in poi soltanto cibo vegetariano nelle mense, nei pranzi cerimoniali, al ministero, rinunciando alla pietanza base del popolo germanico, il Würstel. Sì, non solo i Würstel. Barbara Hendricks, la ministra appunto dell'ambiente, ha emanato una direttiva per evitare di avere cibi di origine animale, insomma anche carne e pesce, non solo i Würstel, nei pranzi appunto dei ricevimenti del suo ministero. In realtà non ha avuto tutto questo successo anche all'interno del governo, perché questa proposta è stata sonoramente bocciata su 14 ministeri. Non la segue nessuno. Perché già i vertici ministeriali saranno un po' tristi, io immagino, no? un po' noiosi. Se poi mi trovo solo l'insalatina. Beh, però l'idea non sembrava male, nel senso che per la questione ci sono quelli che sono vegani, quelli che sono vegetariani. Comunque c'è un dato di fatto che la verdura la mangiano tutti, quindi vai sul sicuro. Giusto. Se tu metti solo verdura, sei sicuro che tutti mangino. E poi di verdura può esserci anche della verdura squisita, nel senso che non dobbiamo immaginarci Crauti. Solo degli. Esatto. Se metti lì solamente un vascone di crauti, effettivamente è molto brutto, ma se metti più roba... Loro hanno voluto, con il Ministero dell'Ambiente ha voluto essere coerente col messaggio che lancia di difesa dell'ambiente, eccetera. Il problema è che non è questo il modo, di sicuro, anche perché la carne è vero che impatta, però ci sono forse moltissime altre cose prima da considerare se si vuole difendere l'ambiente. I tedeschi sono notoriamente un popolo abbastanza propenso alla tutela dell'ambiente ma anche al Würstel. Però di sicuro mangiano troppa carne, soprattutto se paragonati agli italiani, quindi è anche giusto dirgli di ridurre, però sì. Ma ne mangiano più di noi? Sicuramente sì, soprattutto se si tratta di insaccati. In Europa sono pochi a non mangiare più carne degli italiani, anche se non sembra così. Se poi consideriamo i nordamericani, ovviamente i sudamericani, gli australiani, non c'è paragone. Però dico, la Germania è un paese che ha iniziato prima di noi questo processo, è il paese col più alto numero di vegani in Europa, e mentre da noi sta un po' esplodendo adesso questa moda anche a livello sia mediatico. Certo. Perché poi dovete sapere, ascoltatori, che Andrea Bertaglio ne sa di queste cose, sembra così, ma ne sa tanto. Seguitelo anche su Twitter perché è una fonte di tantissime notizie. Andrea, tra l'altro, questa del Ministro dell'Ambiente ha fatto discutere, però tempo fa avevamo letto che si discute in Germania di aumentare l'IVA, che è una cosa pazzesca per i tedeschi, sull'insaccato e sul Würstel, portarla a un'IVA non più agevolata, proprio perché viene considerata una produzione addirittura inquinante, oltre che poco molto sostenibile. Inquinante. Sì, hanno proposto proprio a gennaio di aumentare appunto la tassazione su questi prodotti, ma anche lì non ha avuto nessun successo, anzi questa cosa era stata osteggiata dalla stessa Barbara Hendricks, dallo stesso ministro dell'ambiente. Non si trovano mai d'accordo? Perché non è così che si possono affrontare le l'impatto della produzione di carne. Cioè, dicevo, se vuole dare un buon messaggio la ministra, sì, può guardare l'alimentazione nel suo complesso, perché la gente mangia davvero male, ripeto, soprattutto se paragonato a noi. Poi deve considerare un'altra cosa: questi messaggi spot molto politically correct che sembrano funzionare, soprattutto, ripeto, da noi in questo momento, in Germania si sono esauriti, perché hanno iniziato anni fa questo processo di veganizzazione. Infatti i prodotti, sai, quelli che imitano la carne, i veggie, sì, hanno avuto il boom, che però è finito, perché già nel 2016 c'è stato un crollo nelle vendite di questi prodotti in Germania. Il primo supermercato vegano del mondo, Berlino, ha chiuso i battenti un paio di mesi fa. Quindi in realtà si sta esaurendo questa cosa. E il ministro ha fatto l'errore di credere che invece... E poi secondo me, o sei Michelle Obama e puoi fare l'orto coi fagiolini, se non hai il physique du role, se Barbara Hendricks, forse la stessa cosa non ha funzionato. Grazie Andrea Bertaglio, noi ti salutiamo, ti abbracciamo. Grazie mille. Dalla Germania. Auf Wiedersehen. Auf Wiedersehen. Abbiamo ancora qualche secondo però per chiudere la puntata e abbiamo un'ascoltatrice, Maila, che avevamo tra l'altro annunciato da Prato. Buongiorno. C'è, Maila? Pronto? Sì, pronto. Eccola, sì, qua. Buongiorno. Buongiorno. Cosa volevi dire, Maila? Niente, io volevo dire il mio fatto di prima, soltanto che è già passato, no, quel discorso. Quale discorso? Non passa mai nulla, gaff. Qua si può fare, tutto vale tutto. Gaff, no, detto. Non è passato, ah, prego, sentiamo la tua gaff. Ah, niente, la mia gaffa è un po' osé, diciamo, involontariamente, perché io lavoravo presso lo studio di un avvocato come segretaria, ho scritto una comparsa conclusionale per un incidente, per cui in tribunale io ho scritto al giudice che chiaramente avrebbe dovuto giudicare, diciamo, in base alle responsabilità che se vincevano nel caso. Io al posto della S però ci ho messo una Z, per cui la cancelliera in tribunale, quando l'ha letto ad alta voce in aula, ha letto come lo ha letto veramente. Una risata generale, io mi sono vergognata, non pensavo neanche di averlo scritto, pensavo l'avesse detto lei, sono andata a controllare. Questa è buona per la radio, Maila, perché a noi capita di dover leggere di sbagliare consonante, e quindi questo è un grave errore. Grazie, ecco. Maila, grazie mille, anche alle dobbiamo salutarci però, grazie Maila, è tutto, perché la puntata si chiude qua. Il vincitore, beh, a questo punto possiamo dirlo, dai, avevamo già vincitore è pesce grande, pesce piccolo. Bellissimo. A domani, grazie Andrea Piana, Claudia Schiattone, Carmelo Loricella. Noi ci sentiamo domani 8:30, 10:00, con Si può fare. Ciao da Alessio Maurizi. E ciao da Carlo Gabardini.